Innanzitutto, i nuovi positivi sono 675 in più, ma attenzione perché nelle scorse ore il numero di tamponi si è drasticamente ridotto. La buona notizia continua a essere quella dei posti occupati in terapia intensiva, ancora in calo. I riflettori però restano puntati sulla Lombardia perché contagi e morti non calano con la velocità che ci si aspetterebbe in questa fase dell'epidemia, perché i morti nelle case di riposo sono tantissimi e stanno partendo pesanti inchieste della magistratura. E l'economia? I dolori sono forti. Stando al Fondo Monetario, l'Italia farà segnare il calo peggiore del PIL dopo quello della Grecia. Siamo oltre il 9%, ma mentre, per esempio, Germania e Francia hanno sostanzialmente pronto un piano, o quantomeno una strategia per la riapertura da queste parti, non è chiarissimo, non si sa nemmeno per dire dove si pescherà una parte dei fondi necessari. Nella maggioranza si litiga sull'utilizzo del fondo salva stati. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. E sempre con il nostro Bob Marley a farci coraggio, come ogni mattina, apriamo questa puntata di 24 Mattino di mercoledì 15 aprile, le 6:31 minuti e 30 secondi, con Peter Bescapè in regia, Anita Panizza e Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E con voi naturalmente 349-238-6666 è il numero per gli WhatsApp audio. Fatemi sentire la vostra voce, raccontatemi un po' come vanno le cose. Siamo anche in diretta Facebook, come ben sapete, sulla pagina di 24 Mattino e poi Twitter, Instagram e tutto il resto. Certo che, ragazzi, dove vogliamo andare? Ieri hanno pubblicato il modulo con il quale le piccole imprese, le microimprese possono chiedere i famosi 25.000 euro di finanziamento, quelli che avranno una garanzia dello Stato al 100%. 8 pagine di modulo, 8 pagine di modulo. Eh sì, e molte cose sono, per carità, che si dichiara di accettare la normativa e le vigenti disposizioni operative che disciplinano l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Alcune sono quelle per la privacy, ma pensate il punto 17 del modulo, quello nel quale bisogna dire insomma se si è beneficiato di altri aiuti, di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Ma lo sapete che l'amministrazione dello Stato è già in possesso di questi dati e quindi non si vede perché in un modulo, in una situazione di emergenza, io ce li debba mettere questi dati un'altra volta? Li sai dal 2017, ok? Per favore non me li richiedi. Sgancia questi 25.000 euro o la garanzia per questi 25.000 euro. Oh, così iniziamo con un po' di nervoso. Poi i controlli. Qua sia chiaro, io sono uno per il massimo rispetto della legge, sempre. Si possono contestare le norme, per carità, però non si violano le norme. E però la nuova sceneggiata, dopo quella che abbiamo visto a Barbara D'Urso domenica, ad Agorà, con il povero runner attempato. Che viene fermato in un parco deserto, parco dell'Appia Antica, deserto, e su Agorà va in onda questa cosa qua. Funzionario di polizia locale, c'è una persona qui sulla sinistra. È poco più avanti, sta attraversando un cancelletto, sta correndo. Calzoncini azzurri, magliettina verde, con cappellino bianco, sta scappando, sta correndo. Sulla sinistra. Si fermi, cialtrone! C'è una persona che sta correndo, sta scappando letteralmente nel parco e l'operatore della polizia municipale lo sta raggiungendo di corsa. È stato raggiunto e fermato. Sta scappando, sta correndo. Poi se andate a vedere le foto, perché le ha postate anche Virginia Raggi celebrando questa cosa, no? Andate a vedere le foto, è un signore che, insomma, di spalle, una settantina d'anni li avrà tutti. Sta scappando e chissà dove va. Oh, iniziamo così, va, con un po' di irritazione, che comprende anche tutto questo discorso arrivato dalla regione Lombardia, che sinceramente mi... Anche questo è veramente irritante. Aumentano i allora, i segnali dalla Lombardia non sono buoni, lo abbiamo detto. Nelle scorse ore l'assessore Gallera ha attribuito tutto questo al fatto che la gente si muove troppo. Mi viene da dire, ma questa città, quella famosa Milano che corre, corre così tanto che non rispetta nemmeno i tempi di incubazione e quindi, dato che il giorno prima si sono mossi, il giorno dopo hai più contagi? In realtà, come abbiamo appreso e abbiamo visto anche dai dati effettivi, milanesi e lombardi in genere sono stati disciplinatissimi, tanto che il sindaco Sala se la prende con Gallera. Pomeriggio mi sono messo in casa a guardare i dati dei controlli di ieri e dei giorni precedenti. Ebbene, più del 95% delle persone fermate sono in regola, questa è la realtà. Per cui io mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa gli affari suoi. Non è così. E se qualcuno pensa che c'è troppa gente in giro, deve fare una cosa molto semplice. Faccia una nuova ordinanza e tenga più persone a casa. È tutto qui. Scontro che si allarga, va oltre tutto questo e... passa attraverso, per esempio, la questione dei test sierologici. Ci arriveremo tra un attimo. Intanto, anche in Veneto, Zaia, che ha un po' allargato le maglie, cioè ha detto potete muovermi, ma insomma, oltre i 200 metri da casa, mi fido dei veneti, dice, e però le foto che vedo mi fanno imbestialire. Non la dice proprio così, eh. Io non posso vedere immagini che mi mandano e mi fanno incazzare di parcheggi dei rifugi pieni di macchine, perché dico che se funziona così mi costringete a rimettere una distanza. Io trovo ingiusto che per colpa di qualcuno tutti debbano essere penalizzati, perché i veneti sono persone per bene, hanno dimostrato di aver rispettato le regole, lo abbiamo dimostrato scientificamente e adesso vi chiedo l'ultimo sforzo. Oh, e lo dico subito all'ascoltatore o all'ascoltatrice, no? Che dice, insomma, c'è sulla questione del runner che viene fermato sull'Appia Antica. Guardate, non è una questione che ha a che fare con questa persona che chiaramente le regole non le ha rispettate. È tutto il cinema con l'elicottero, i poliziotti della municipale che lo inseguono. Insomma, dai, cioè, ma forse un po' troppo in tutta le immagini televisive, la scena ad Agorà, ci stiamo arrivando, lo stiamo prendendo, manco fosse Matteo Messina Denaro. Calma, ha violato le regole, sarà multato, giusto così, punto, e finiamola in questo modo, per favore. Oh, scusate, sono svegliato male oggi evidentemente. Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano dei Balneari, buongiorno, benvenuto Capacchione. Buongiorno a lei e radioascoltatori. Si prepara un'estate complicata della quale non conosciamo i contorni ancora, ossia non sapremo come andremo in vacanza e non saprete voi ovviamente come accoglierete e se accoglierete le persone che eventualmente arriveranno. Ieri tra l'altro Capacchione, tutti hanno visto le immagini di questa ipotesi un po' folle, devo dire la verità, no? Dei cubi in plexiglass nei quali inserire i turisti sulle spiagge. Insomma, io spero che non ci stia pensando nessuno. Ma più che un po' folle, del tutto folle, noi l'abbiamo vista come una proposta minacciosa e ridicola. Chi ha ipotizzato una soluzione di questo tipo non conosce il mare. Ognuno di noi va al mare per respirare la brezza marina, non per una sauna. Sì. Quindi un'ipotesi assolutamente irrealistica, come sì, ho già detto, minacciosa, arricchito gli incubi di tutti gli italiani. E forse anche pericolosa. Senta Capacchione, come vi state preparando? Cosa immaginate? Ma, cosa immaginate voi per quest'estate? Ma prima di tutto dobbiamo essere ossequiosi e attendere le disposizioni delle autorità sanitarie. Proprio ieri il capo della protezione civile e il rappresentante dell'Istituto Superiore della Sanità hanno detto che al momento non è assolutamente ipotizzabile, nessuno può ipotizzare se e quando andiamo in vacanza. Noi abbiamo 2 secoli di esperienza alle spalle, quindi possiamo dare degli utili contributi alle autorità sanitarie per misure che siano efficaci, quindi che impediscono la diffusione del virus. Però Capacchione, mi faccia una cortesia. Questo è il lato istituzionale, noi siamo perfettamente d'accordo. Però lei mi dovesse descrivere come andrò in spiaggia quest'estate, come cittadino qualsiasi, come se la immagina questa cosa? Cosa state pensando? Guardi, dipende se continuiamo o meno ad essere in una situazione di diffusione virale, perché se sono impossibili i contatti, le spiagge sono il luogo della socializzazione per antonomasia, sono le nuove piazze, hanno sostituito le piazze della città, non è possibile considerare lo stabilimento balneare come un reparto ospedaliero o come un braccio di un penitenziario. Per cui o si potrà andare a mare per parlare, per abbracciarsi, oppure quello la vedo più difficile. Abbracciarsi la vedo più difficile, Capacchione. Ma ora ci sono delle soluzioni ragionevoli, che sono la sanificazione delle attrezzature balneari, dei piattini, dell'asdraio, del lettino, il distanziamento degli ombrelloni, una maggiore igiene, un maggior controllo, ma ripeto, sono tutte ipotesi che ci derivano dall'esperienza di questo settore così prezioso. Stiamo parlando di 30.000 aziende a conduzione familiare, le spiagge vengono considerate una parte non solo dell'economia di questo paese, ma è un pezzo di cuore di questo paese, perché tutti quanti pensiamo proprio in questi giorni, che sono i giorni migliori, le giornate sono lunghe, non fa molto caldo, non c'è molta gente, ci stiamo privando di una parte importante. Purtroppo questa epidemia ci sta privando di una parte importante della nostra vita, della nostra gioia, della nostra felicità. Quindi noi siamo a disposizione delle autorità sanitarie per dare il contributo della nostra esperienza per delle soluzioni che, come dicevo prima, siano efficaci e nel contempo praticabili, altrimenti stiamo parlando di nulla, stiamo solo fantasticando. Sì. Lei ci vede in spiaggia con la mascherina? Ma guardi, pensare alla mascherina con la bronzatura, a farsi il bagno in maniera distanziata da 50 metri dal coniuge, dal marito, dall'amico, sono come dire delle ipotesi che francamente sono lontanissime da quello che noi pensiamo, immaginiamo, sogniamo che possa essere. Ascolti, ultima domanda. Io immagino che quello che vi attendete nel caso di una ripartenza sia un minore afflusso di stranieri. ma non un minore. Oramai i dati sono azzerato. Il turismo straniero è azzerato. Noi abbiamo anche dei dati, un sondaggio che è stato fatto da un istituto prestigioso di indagine la settimana scorsa. Cioè il 53% degli italiani non ci pensa proprio alla vacanza, il 10% ha paura di non avere ferie e un altro 15%, insomma praticamente l'80% della domanda interna. Sì, anche perché poi, mi scusi Capacchione, lo ricordiamo, in molte aziende di fatto le persone sono state costrette a prendersi le ferie prima dell'estate, no, per questo stop della produzione. E l'ipotesi è che luglio e agosto siano dei mesi, se tutto va bene, se non pienamente lavorativi, quasi, e questo è anche un problema, no? Quello che stavo appunto dicendo, noi abbiamo un turismo straniero azzerato, una domanda estera inesistente, è una domanda interna impoverita, ma soprattutto impaurita, per cui noi pensiamo al nostro lavoro come metterci a servizio di questa collettività, della nostra patria. Non voglio essere retorico, sì, ma questo è il momento in cui ognuno deve fare la sua parte. Sì. I balneari sono a disposizione per la ripartenza, non tanto economica quanto morale, per una rigenerazione psichica di questa nostra popolazione che è stremata. Ecco, noi ci vediamo in questo modo, siamo a servizio di questo paese. E questo vi fa onore. Ci auguriamo che siamo messi nelle condizioni di farlo, ecco. Grazie. Anche da parte della burocrazia che lei giustamente che prima cita, e là vedremo, perché là saranno dolori. Grazie Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano dei Balneari. Una pausa, il traffico, ci ritroviamo subito dopo. C'è un ascoltatore che dice ci sarà un calo di oltre il 50%, non ci sono i soldi. È vero, non ci sono i soldi. Il governo pare che stia pensando anche a dei soldi cash o a un credito d'imposta per consentire alle persone di fare qualche giorno di vacanza. Vedremo come andranno le cose, quest'anno è così, è così, traffico. Ed eccoci di nuovo, come al solito, quando si parla di runner, di persone che vanno in giro, c'è qualcuno che ci porta gli esempi stranieri. Ci scrive un'ascoltatrice: a Berlino vanno nei parchi. È vero, ci sono alcuni paesi che hanno fatto delle scelte diverse su questo fronte. Ci sono alcune regioni che hanno fatto delle scelte diverse. Come si diceva, il Veneto ha parzialmente allargato le maglie, consentendo alle persone di farsi una corsetta oltre i 200 metri da casa. Paesi diversi che affrontano in modo diverso le cose, ovviamente. Tra tutte le questioni c'è quella dei famosi test sierologici. Cosa sono? Sono quei test che permettono, la faccio molto semplice come sempre, non da infettivologo, non da virologo, mi perdonerete, che permettono di capire se hai gli anticorpi a Covid-19, quindi ti permettono di capire se ce l'hai avuto, in sostanza. Cosa permettono? Permettono, da una parte, se non sono abbastanza precisi, un'indagine epidemiologica, e quindi finalmente avere un po' di chiarezza su questi numeri che, lo ribadisco ancora una volta, a costo di beccarmi degli insulti, i numeri, quelli della Protezione Civile che vengono forniti ogni giorno, che sono tutto meno che dei dati chiari ed omogenei, perché non sappiamo, devono essere correlati a quanti tamponi vengono fatti ogni giorno, a quanti risultati di tamponi vengono fatti ogni giorno, a quanti tamponi vengono fatti in ogni singola regione, perché in alcune regioni ne vengono fatti tantissimi, in altri meno. Non tengono conto dei morti all'interno delle residenze per anziani, che sono tantissimi e lo abbiamo raccontato. E quindi sono dei dati che prendiamo indicativamente, così ci danno un'idea pur vaga. E quindi i test sierologici possono servire, dal punto di vista epidemiologico, a dirci: ok, il virus è diffuso all'interno della popolazione in questa quota. E a questo sta pensando il governo nell'arco di, pare 2-3 settimane. La Toscana è pronta a farne 300.000, la Lombardia parla di 20.000 al giorno, scusate, a partire dalla settimana prossima. Anche qua ci pare con un finino di ritardo, però così è. Così Gallera. Questo test sierologico, che è un test sicuramente molto più veloce, molto affidabile oggi, perché consente di verificare non solo la presenza degli anticorpi, ma se gli anticorpi sono immunizzanti, cioè in qualche modo hanno sterilizzato il virus, che è la cosa importante ai fini di riprendere una vita sociale, di poter andare a lavorare, di essere sicuri di non infettare nessuno. C'è una potenzialità di processazione che cresce di giorno in giorno anche per questi test. Oggi si oscilla fra i 10-15 mila, forse addirittura 20 mila. Noi ci stiamo già attrezzando per iniziare a farli dal 21. I target sono coloro che devono rientrare a lavorare, e quindi gli operatori sanitari da un lato e i cittadini dopo le loro quarantene. Dice il sindaco di Milano Sala: ci spieghi la regione perché, dato che ci stanno dicendo che Milano è a rischio, come mai Milano è esclusa da questa prima ondata ai test sierologici? Che ci diano le mascherine, che ci diano più tamponi, molti più tamponi, che ci diano i test sierologici. Tra parentesi, leggo che Regione Lombardia dichiara che dal 21 di aprile si faranno 20.000 test al giorno. Bene, dove? In altre province, ma non Milano. Ma come? Il problema non è Milano. C'è chi ha iniziato già da qualche giorno, come Roberto Francese, sindaco di Robbio, provincia di Pavia. Buongiorno Francese, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, da quanto avete iniziato con i test sierologici voi, su sua iniziativa? Abbiamo iniziato circa un mese fa. Sì. Abbiamo iniziato con un reagente che arriva dalla Cina e che tutti usano comunemente, e che, da quello che ho capito, è anche lo stesso che utilizzerà la Lombardia. La Lombardia forse opterà per un test rapido, noi invece facciamo proprio sierologico, quello da manuale, nel senso che si va in laboratorio e si vede il valore esatto dell'IgG e il valore esatto dell'IgM. Il che ci dà questo serve, sì, prego, per capire se c'è infezione in corso e se c'è stata l'infezione nella persona. Sui primi 1.000 dati che abbiamo processato, siamo arrivati circa 2005, l'11% della popolazione è stata positiva al coronavirus e il 2% lo è ancora oggi. Quindi i dati, appunto, come sentivo prima che diceva giustamente lei, quelli che ci dicono in televisione sono chiaramente dati falsati, che non hanno alcun riscontro. Noi abbiamo una Costituzione italiana che dice all'articolo 32 che la salute è un diritto individuale e collettivo. Il sindaco è il tutore della salute sul territorio e mi sono sentito abbandonato dallo Stato, che ancora oggi non ha iniziato a fare questi test e non fa i tamponi. Noi di qui hanno fatto zero tamponi alla casa di riposo e zero tamponi domiciliari alla popolazione. Che situazione c'è nella casa di riposo, a proposito, Francese? Ma per fortuna noi abbiamo un medico che bisognerebbe fargli una statua in piazza, che è il dottor Ivano Morelli, che è bravissimo ed è riuscito in tempi non sospetti ad isolare la casa di riposo, e quindi non, al momento, adesso tocchiamo ferro perché anche i risultati del test sierologico lo dimostrano, non ci sono casi attivi, però è stata anche bravura del medico, un po' di fortuna, e grazie al test sierologico sappiamo, ad esempio, gli operatori che sono stati positivi, che vengono isolati. Ci siamo dovuti arrangiare noi tirandoci su le maniche, ma non esiste. Lo Stato deve garantire la salute dei cittadini, lo prevede la nostra Costituzione. Dove lei per Stato, immagino, intenda, diciamo, nelle sue varie articolazioni, da quello centrale alla abbiamo regione. Abbiamo avuto una dimostrazione che è disarticolato lo Stato. Qua il governo fa un decreto e Fontana lo supera dopo un minuto. Poi allora il governo fa un'altra repicca, ma non si fa così, qui ci imballo la vita della gente, bisogna essere seri, non si può andare avanti così. Senta, ma come vi è venuta in mente, Francese, questa cosa dei test sierologici in un momento nel quale, devo dire, non è che non è che fossero al centro del dibattito pubblico? Ci ha detto, abbiamo iniziato da un mese, no? Ma un mese fa, quando siamo partiti noi, ci davano dei pazzi. E questo è il problema. Io, nella prima diretta che ho fatto in TV, mi hanno detto che era inutile e dannoso. Dopodiché ha cominciato la Lombardia a fare una serie di conferenze stampa dicendo che era inutile fare il sierologico. Dopo 2 o 3 giorni hanno cambiato totalmente idea, ma va anche bene che cambino idea, ma che si muovano a farli, perché noi di parole siamo stufi. Qua bisogna fare i fatti. Le parole ormai, la gente muore velocissima, non ha tempo di aspettare. È pieno di laboratori privati. Il nostro è piemontese, poi li manda a Genova, li manda a Napoli, perché la Lombardia ha vietato di fare questi test. Proprio ieri ho conosciuto un laboratorio di Sesto Calende che si è offerto di andare avanti con noi a fare questi test, quindi ci sta dando una mano anche questo. Si potrebbe dare del lavoro ai privati, perché qui è anche il tema delle aziende, conteremo anche lì i morti. Bastava anche il provvedimento, quello dei finanziamenti alle aziende, era semplicissimo, bastava una pagina, non 50 pagine. Ah, sì. Il 10% del fatturato dichiarato nell'ultimo anno sotto forma di finanziamento, il primo anno tasso zero, con l'obbligo di pagare tutti i fornitori. Ed era finita lì, 3 parole, avevano fatto un provvedimento intelligente. Invece così, guarda, è tutto articolato, stamattina, non si capisce niente. Guardi, Francesco, stamattina siamo partiti proprio dal modulo arrivato ieri per la richiesta dei 25.000 euro ed è un delirio di richiami normativi che nemmeno glielo voglio dire. Grazie, Roberto Francese, sindaco di Robbio. Vedremo come andrà questa indagine epidemiologica in privato, cioè in privato per modo di dire, in pubblico nel senso di un comune, però insomma non fatta né dallo Stato né dalla Regione. Intanto grazie. A chiudere un passaggio di Donald Trump, sentiamolo, va. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess. Cosa fa Donald Trump? Ha annunciato, l'aveva già detto, ha annunciato il taglio dei fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, accusandola addirittura, insomma, di aver coperto la parte peggiore dell'epidemia. Dall'altra parte, il tutto entra in una fase di campagna elettorale molto molto tosta, che come sapete, come negli Stati Uniti, si concluderà a novembre, e nella quale i democratici dall'altra parte dicono: beh, attacca l'OMS per coprire le sue mancanze. Nel frattempo vi dico che nella notte è stato presentato il piano per la ripartenza anche della California, che è un po' un esempio, è guardato un po' come un faro, perché è riuscita a contenere le cose in maniera eccellente. E con Bob Marley, come sempre, andiamo anche a chiudere questa prima parte di 24 Mattino. Ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa e con Paolo Mieli. E poi alle 8:20 torneremo a parlare di imprese col vice ministro al Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni. E poi col presidente della Liguria, Giovanni Toti, parleremo più in generale di come la stanno gestendo loro. A tra poco.